che sono state fatte un anno fa da un fotografo che ha passato una giornata con lui, una giornata fantastica in cui mio figlio, che è autistico, con lui comunicava perfettamente. Mi commuove pensarlo, perché questo fotografo si chiama Andy Rocchelli, è il fotoreporter ucciso da un colpo di mortaio in Ucraina, che oggi torna in Italia. Me lo sono ricordato questa mattina. A domani.